Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. La puntata di questa settimana di Mebius si apre con te, Chiara, circondata da animali domestici. Sì. Cani, gatti, non ma... Non solo, anche animali selvatici, ricci, faine e volpi che possono diventare domestici. Con i quali abbiamo comunque qualche relazione ravvicinata. Adesso i titoli e poi via, parti. Buon viaggio. Il cane è geloso e prova i sensi di colpa? Perché invece il gatto riduce a brandelli il divano? Il mondo degli animali, raccontato a Roma durante la rassegna Amici miei. È comprensibile che ognuno di noi si senta io, ma in realtà siamo inesorabilmente noi, fin dai primi mesi di vita, nella pancia della mamma. È la nuova frontiera della ricerca nel campo della intersoggettività. Impadronirsi istintivamente di oggetti futili che appartengono ad altri. È la cleptomania, una rara patologia ancora poco conosciuta. Un lungo weekend tra etologia, psicologia, storie, arti e spettacoli. Questo è un po' lo slogan che caratterizza l'evento, la kermesse, che si chiama Amici miei 2014. E chi sono gli amici nostri? Sono i cani, i gatti e tanti altri amici di famiglia. In realtà è una manifestazione che si tiene a Roma dal 22 al 25 maggio 2014 e si occuperà di diversi aspetti legati al mondo animale. La redazione di Mebius ha un po' selezionato quelli che sono gli interventi che a nostro parere sono più interessanti da raccontare a voi ascoltatori. Ve ne racconteremo un paio durante questa puntata. Uno degli eventi che abbiamo selezionato è Comunicando quando le parole non servono. Do il benvenuto a Federica Pirrone, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Lei è veterinaria, etologa della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano e proprio in occasione di questa kermesse, Amici miei, lei terrà un incontro domenica 25, nella giornata conclusiva, in cui ci racconta un pochino quelli che sono i comportamenti dei nostri amici animali, soprattutto cani e gatti, cioè quelli che conosciamo un po' meglio. Allora, noi abbiamo chiacchierato un po' in merito al suo intervento e ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Intanto vorrei che le raccontasse: il cane può provare gelosia? Allora, la risposta la do subito ed è no. No, molto probabilmente, perché poi la scienza non ha confini e quindi tutto è dimostrabile. La gelosia è un'emozione secondaria, quindi è uno stato emotivo intenso che ha una funzione sociale, perché attraverso la sua espressione noi possiamo comunicare le nostre intenzioni, ed è secondaria nel senso che è modellata comunque dall'esperienza e necessita di una certa dose di autocoscienza e di consapevolezza del pensiero altrui, che così forse, come il lutto. Sì. Quindi il cane non ha, ecco, forse. Il cane dovrebbe effettuare, diciamo, una valutazione cognitiva un po' elaborata, e inoltre il cane è un animale sociale, quindi mettendo insieme tutte queste cose possiamo dire che quei comportamenti che spesso il proprietario considerano di gelosia nella situazione in cui, per esempio, si mette ad interagire con un altro cane. Ecco, infatti, no, le stavo per chiedere proprio la classica situazione in cui appunto il padrone fa le care ad un altro cagnolino incontrato al parco. Lui non è geloso, ne siamo certi. No, quasi, diciamo quasi certi, e diciamo che essendo un animale sociale molto più probabilmente vuole partecipare all'interazione anche lui. Ecco, invece il gatto non è un animale sociale. Non è vero, non è vero, anche questo è un altro mito che vorremmo sfatare, non quello domestico almeno, cioè discende dal gatto selvatico africano che era un animale solitario, ma lui si è autodomesticato, ok? Cominciando a frequentare i granai dell'uomo, che erano pieni di prede succulente, topini, ratti, serpenti. Continua a dipendere dalle risorse dell'uomo e quindi, se sono sufficienti, si organizza vivendo in gruppi che sono le ormai famose colonie. Sono gruppi sociali basati sul principio della coesione. Le aggressioni sono molto rare, generalmente dirette a gatti estranei, e Proprio questo ha fatto sì che rispetto ad altri diciamo felini selvatici esistano delle comunicazioni all'interno dei gatti domestici liberi che non esistono appunto allo stato selvatico, quindi si è proprio evoluta la comunicazione all'interno del gruppo. Però, è un cacciatore solitario, però quello sì. Però ad esempio succede che quando si allontanano da casa o comunque rimangono seppur domestici, rimangono fuori per strada e in effetti si riuniscono in branchi, no? Sì, sì, si riuniscono in branchi e tra l'altro questo succede anche molto spesso la notte. Ma questo gatto, perché? Il gatto, i proprietari non lo sanno, adesso hanno pubblicato uno studio abbastanza recente in Inghilterra, l'hanno fatto, e hanno scoperto che il gatto, noi non lo sappiamo, ma si allontana dal nostro letto dove spesso dorme e se ne va anche centinaia di metri lontano da casa. E va ad interagire con gli altri gatti, con alcuni fa proprio gruppo, affiliativo diciamo, con altri si contende il territorio, entra nelle abitazioni dei vicini e ruba il cibo dalle ciotole altrui. Sì, perché di fatto quando non è in casa nostra noi non sappiamo cosa faccia. Esatto, in realtà... e poi la mattina torna alle prime ore dell'alba, torna sul nostro letto e noi siamo convinti che abbia passato la notte con noi. Oppure da solo, e invece oppure no, lui solo, è andato certo. In giro in gruppo a fare esatto. Delle feste. Ecco, e il fatto che riduca a brandelli il divano, su questo si sa qualcosa, perché? Beh, lo fa perché graffiare, cioè grattare le superfici è un comportamento innato e normale che ha una funzione comunicativa perché lascia i graffi e quindi comunica anche a lunga distanza di tempo che lui è lì e sta lì e vive lì e poi anche attraverso la liberazione di feromoni che sono secreti da ghiandole dei polpastrelli, quindi anche attraverso l'odore comunica la sua presenza. Poi si stiracchia, quindi si autorilassa e si rifà gli artigli che sono la sua prima arma di caccia. Detto questo, il proprietario deve sapere che essendo un comportamento innato è normale e deve mettergli a disposizione superfici invece gratta, non il divano, il letto piuttosto che il tappeto, ma a riempire la casa di superfici grattabili, così lui può sfogare la propria natura. Se non volete che il vostro divano venga ridotto a brandelli, voi comprategli quei giochi, le appunto, grattarole, ama tanto, ecco. Anche un po' complicate, passatoie, ce ne sono, costano, devo dire, però sono molto utili, si risparmia sulla tappezzeria. Perché comunque loro lo devono fare, è innato. Sì, quindi... è normale e li fa sentire anche a proprio agio. E invece, torniamo al cane. Sì. Allora, mi piacerebbe capire, si è tanto detto sullo scodinzolare, su quello che può essere il significato dello scodinzolio del cane. Qualche tempo fa, proprio qui a Mebius, abbiamo parlato della ricerca del CIMEC, il Centro di Mente e Cervello, sì. Con Vallo Ortigara, in cui dà una spiegazione precisa, certo. Dello scodinzolare a destra e a sinistra. Però, noi gli diamo sempre un significato molto positivo, cioè quando il nostro cane scodinzola è felice, ci vuole fare le feste, ma è vero? Non sempre. La coda del cane può indicare felicità o socievolezza e questo è quello che siamo più portati a pensare, ma può anche essere un indice di ansia, di paura o addirittura di aggressività. Di fatto lo scodinzolio indica che il cane sta interagendo con qualcuno, dunque ha una funzione sociale, ma non dà informazioni riguardo al valore di questa interazione, bisogna guardare come è messa la coda, come è utilizzata. Una coda che viene mossa però tenuta al di sotto diciamo della linea mediana del corpo e mossa dolcemente è segno di socievolezza. Quindi se è un po' bassa. Se è bassa un po' tra le zampe però no, allora vuol dire che il cane un po' ricurva diciamo tra le zampe, allora vuol dire che il cane in realtà è stressato, addirittura paura. Ah, quindi un po' sottomesso. Sì. Se invece la coda è dritta, tesa e agitata, magari anche un po' vigorosamente, oppure solo la punta, probabilmente quel cane sta dando un segno di intimidazione. Vuole poi un po' aggredire tutto il corpo, ovviamente. E invece diciamo che noi cerchiamo sempre un po' di capire se questi nostri animali domestici hanno dei sentimenti un po' simili ai nostri. Ecco, a riguardo di questo sentiremo tra breve, ci collegheremo con il professor Felice Cimatti che proprio ci parlerà anche un po' di questo, di quella che è l'animalità. Però ecco, lei mi raccontava che c'è uno studio anche sul senso di colpa, cioè il cane può provare questo senso di colpa che è prettamente quasi umano, forse? È umano, ecco. Di fatto in realtà non ci sono prove che la situazione, anche questa è abbastanza tipica, cioè il proprietario esce di casa e quando torna trova qualcosa di distrutto, un danno, la pipì sul tappeto, ecco, eccetera, sì, e riconosce nel cane lo sguardo colpevole. Devo dire che lo stesso, un autorevole come Lorenz, parecchio tempo fa l'aveva già identificato, questo sguardo inconfondibile del cane, come diceva lui, con la coscienza sporca. Ma la verità, molto probabilmente, anzi direi quasi del tutto sicuramente, è che questi comportamenti, che sembrano un po' supplichevoli, cammina lentamente raso terra, ci guarda dal basso verso l'alto, tiene le orecchie basse, eccetera, di fatto siano una la sua reazione alla nostra reazione al fattaccio. Riconosce che siamo arrabbiati e ci manda dei segnali di calma per cercare di scongiurare un conflitto. Quindi in realtà è tutto un significato che magari diamo noi a dei comportamenti, sì, che in realtà sono innati. Sono spontanei tra cani sicuramente, e poi hanno adattato questa comunicazione anche al rapporto con noi. In realtà sull'etologia di questi animali ce ne sarebbe da raccontare tanto. Se partecipando al festival ne impareranno molto. 4 giorni intensi, sì, su quelli che sono i comportamenti degli animali domestici, ma anche quelli un pochino più esotici, sì, quelli che non conosciamo bene, tipo il furetto. Ci, sì, sono degli appuntamenti molto specifici. Ecco, quindi chi volesse incontrare la dottoressa Pirrone può farlo a Roma durante l'evento Amici Miei, domenica 25 alle ore 11. Comunque poi trovate tutto in rete, il programma del festival. Grazie Pirrone, ci risentiremo magari nei prossimi appuntamenti, ci racconterà qualcos'altro riguardo appunto all'etologia di questi animali che pensiamo di conoscere molto bene. Va bene, grazie mille. Grazie, buonasera. Arrivederci, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Continuiamo a parlare di Amici Miei 2014, che è questa rassegna che si terrà a Roma all'Auditorium Parco della Musica dal 22 al 25 maggio, e come vi dicevo in apertura abbiamo scelto dei temi che potessero essere insomma in qualche modo interessanti, accattivanti per voi ascoltatori. Abbiamo raccontato un po' quella che è l'etologia dei nostri animali domestici, invece adesso vorrei fare una riflessione con il nostro ospite Felice Cimatti. Intanto buonasera. Buonasera. Lei è filosofo del linguaggio all'Università della Calabria e in occasione di questo festival terrà uno spunto di interessante riflessione sulla filosofia dell'animalità. Ecco, forse magari prima la definiamo e poi andiamo un po' a sviscerarla. Lo spunto nasce dal fatto che ho pubblicato qualche mese fa con la terza un libro che si intitola appunto Filosofia dell'animalità, e l'idea è una riflessione un po' ampia su questa questione. La particolarità di questo libro è che si parla sicuramente degli animali, degli animali non umani, come li chiamano, magari poi diciamo due parole, ecco, su questo strano modo, infatti, di definire. E poi soprattutto cerca di immaginare, di parlare della nostra animalità, perché è un po' il grande tema tante volte rimosso e nascosto. Cioè siamo tanto qui a parlare cani, gatti, come fanno gli animali, cosa fanno gli animali, sono intelligenti, non sono intelligenti, bla bla bla. E un po' rimane sullo sfondo il tema della nostra di animalità, e quindi un po' questo libro soprattutto cerca di parlare di questo, e nel dialogo, nella relazione, no? L'idea sarebbe proprio di affrontare questa questione, cioè che cosa possiamo dire quando parliamo della animalità degli umani. Non è tanto facile rispondere a questa domanda. Il libro in effetti è più un libro proprio di filosofia, nel senso forse poco italiano, perché siamo abituati a pensare che i libri di filosofia contengano un sacco di consigli, di suggerimenti. Stranamente in Italia è diventato il filosofo un tizio che non si sa bene a quale titolo ti dice come devi vivere, qual è la cosa giusta da fare, mentre invece il filosofo proprio non è questo è un altro tipo di figura. Quindi il libro che ho scritto io cerca di essere, e la relazione che ci sarà appunto quel sabato, vorrà un po' più ragionare su questioni aperte, domande, forse anche un po' fastidiose. Sempre lei mentre introduceva parlava, no? I nostri cani, i nostri gatti, ecco, riflettere un po' su quell'aggettivo, in che senso può essere nostro un vivente? Vive, giusto, con noi, va bene, ma è nostro il cane, è nostro il gatto? E poi mi dica se sbagliamo, insomma, noi ci sforziamo molto a questo rapporto uomo-animale, invece ci dimentichiamo che anche l'uomo è animale, quindi dovremmo dire animale-animale, no? A parte questo, naturalmente, ma anche il fatto, noi diciamo uomo, anche il fatto, perché un confronto fra uomo e animale? Cioè, è buffo, no? Come se noi dicessimo, cioè noi, e poi in realtà sarà un retaggio, ma intanto diciamo uomo, lei è una donna, è come se non in qualche modo c'entra certo di straforo in questa categoria, perché l'animale, l'uomo per definizione è un maschio, e se poi andiamo a vedere non solo è un maschio adulto, razionale, se poi è un po' razzista, uno dirà un maschio tutto razionale bianco, e se ancora uno è più razzista dirà anglosassone. Cioè, ci sono un sacco di cose non dette in questa faccenda dell'uomo, certo. Ma poi perché uomo e animale? Cioè, da una parte c'è l'uomo, questo signore che è un po' pensoso, che sta lì, che riflette sul resto dell'universo, e dall'altra parte tutti gli animali. Ma perché non c'è? Perché non pensiamo al rapporto fra coniglio e elefante? O fra zanzara, ecco, o ippopotamo. No, poi giustamente lei diceva, io prima dicevo i nostri amici animali, ma perché? Ma appunto, perché tendiamo un po' ad appropriarcene, a farli nostri e a riflettere sempre su di loro? Lo dicevamo anche prima con l'etologa che l'ha preceduta, la Pirrone. Perché noi in qualche modo diamo sempre delle spiegazioni anche dal punto di vista, come dire, umano, per cui facciamo provare loro delle sensazioni che sono la gelosia, il senso di colpa, cosa che appunto un cane o un gatto non hanno, non provano. Spero proprio che lo provino. Ora, io appunto, a parte il fatto che parliamo con una tranquillità di quello che passa per la testa per un altro vivente, come se ne fossimo sicuri, no? I cani fanno questo, i cani fanno quest'altro, lei mi può dire qualunque cosa, ma io che ne so di quello che lei sta pensando in questo istante. E se è così complicato con un umano, con uno della mia stessa specie, che parla la mia lingua, pensi quanto è complicato immaginare cosa passa per la testa di un cane, di un cavallo, di un ragno. Certo. Già questo, cioè, con quale c'è un'arroganza nel nostro rapporto con il vivente che è pazzesca. E poi ha detto benissimo lei, già il fatto che li chiamiamo amici, ma amico è una cosa... Nella vita, fra, se io diventeremo mai amici io e lei, è una libera scelta, nessuno ci costringe, nessuno ci impedisce di interrompere l'amicizia. Il mio cane con la mia museruola, con il mio guinzaglio che ho castrato perché altrimenti diventa, cioè in che senso quello la chiamiamo amicizia? Sì, però sono tutti termini insomma che ricaviamo dal nostro vissuto, come dire, di umanità, di essere vivente, sì, certo, umano, ecco. Secondo me la cosa è proprio questo il punto, riflettere sull'animalità vorrà dire intanto mettere in discussione questo, il nostro punto di vista, cioè prima di uno si aspetta, no? Oggi ci parlano di animalità, ci diranno. Cioè, una tipica domanda che mi fanno quando presento il libro è una domanda che si sente tante volte e che veramente mi intristisce. Mi chiedono, ma secondo lei qual è l'animale più intelligente? Appunto, ancora una volta è un giudice. Quello, anche se poi no, perché? Perché un animale deve essere intelligente, perché un animale stupido non è meritevole di attenzione. Ma soprattutto parlare di animalità, secondo me, vuol dire parlare del nostro atteggiamento rispetto al mondo vivente. Quasi non parlare dei cani, dei cavalli e dei conigli, perché quelli, se potessimo lasciarli vivere la loro vita, sarebbero, penso, tanto più tranquilli. Mentre invece non mettiamo mai in discussione, è come se noi vedessimo sempre il mondo da un certo punto di vista e non ci rendessimo conto del nostro punto di vista. Ecco, questo lavoro di filosofia è questo che fa. Ecco, li mettiamo sempre in una categoria forse un filo inferiore. Infatti lei quando sono stata ottimista quando ne parlavamo per preparare insomma l'intervista, lei mi diceva è bellissimo quell'animale, peccato non parli. Ecco, perché un po' consideriamo questo aspetto del non linguaggio parlato un aspetto insomma che appunto li pone ad un gradino inferiore. Infatti, no, a parte questo, no, a parte il fatto che perché deve parlare un cane? A parte il fatto che un cane e un gatto hanno modi loro di esprimersi assolutamente efficienti e efficaci e belli, quello che vuole dal loro punto di vista, ma poi sarebbe come dire, pensi quanto sarebbe bello un cane che parlasse, il che sarebbe come dire, pensi che bello se non fosse un cane, ma fosse un poveraccio che ha quattro zampe e parla pure. Cioè non riusciamo a immaginare anche le persone più ben disposte, in questo senso c'è anche un aspetto fastidioso in una riflessione filosofica sull'animalità, perché mette in discussione anche il compiacimento. Tante persone quando parlano dei propri animali si sentono un po' particolari, no? Quanto voglio bene io agli animali. Sarebbe un po' da chiedergli, ma in che senso vuoi bene a questo animale? Cioè, in che senso vuoi il bene di questo animale? E quanto invece il bene che è in questione è il tuo? L'altro giorno qui a Roma pioveva, ho visto un cagnolino di questi che vanno di moda ora, piccolini, piccolissimi, e aveva un collare con un tessuto di una famosissima marca italiana di alta di moda, immagino. Altissimo, no? Immagino quanto costasse quel collare. Sto cagnolino ha un collare quasi più grande di lui e mi chiedevo, ma che cosa avrà voluto? Era un cane portato a spasso da una signora. Il cane oppure voleva qualcosa a cui appendere questo collare per far vedere quanto poteva permettersi di spendere? Era abbastanza curiosa questa immagine di una persona che, se immagino le avessi chiesto, ma lei ama i cani? Mi avrebbe detto, amo tantissimo, penso, gli metto questa vestita vestito di moda, a un cane un vestito di moda? Dopodiché, io che sto parlando per il primo sono pieno di contraddizioni, è difficile trovare persone è che parlino di animalità. È molto difficile. Le perché... persone che sono capaci di farlo, secondo me, sono un po' i vegani, rispetto a cui ho veramente grande stima. Sento molto intimorito da persone così capaci di questa grandissima coerenza. Perché, ecco, crede che siano in qualche modo assolutamente coerenti sia dal punto di vista etico che poi dal punto di vista di comportamento e così via. Cioè... Infatti scoperchiamo un vaso di Pandora se pensiamo agli animali che appunto ci mangiamo. Ma non mi metto in difficoltà perché è un problema. È un problema proprio nel senso di voglia di amare gli animali, perché pensi un'altra assurdità. Assurdità, naturalmente, nessuno qui chi è chi può permettersi di scagliare la prima pietra. Ci siamo tanto indignati, si ricorda anni fa ci fu quella faccenda di quel cuoco che in televisione parlava di come si cucinavano i gatti. O si sì, nel Vicentino, Bigazzi, questo famoso gastronomo. Scandalo, come ti permetti? Ma perché? I conigli? Non so, i pesci? La trota? Il sarago? Per quale ragione siamo tutti così indignati se un gatto viene mangiato e tutti questi altri miliardi di animali che vengono... Sono miliardi, non scherzo. No, poi a seconda dell'etnia, della cultura, diciamo che le specie che rientrano nell'alimentazione sono veramente... Sono letteralmente, ogni giorno vengono uccisi e mangiati miliardi di animali. E allora da questo punto di vista uno dice io amo gli animali, sì, certo, è vero, è meglio amarli che non amarli, ora ci mancherebbe tantissima stima. Però da un altro punto di vista, uno un pochino di lavoro, in quel senso le dicevo, un vegano, io di fronte a un vegano vero, non so che dire, con tutto che sono un gran chiacchierone, mi zittiscono. Ma quindi in realtà, professore, mi dica, siamo dei grandi incoerenti, insomma, mi sembra di capire che siamo l'incoerenza regna. Magari lei no, magari è la persona più coerente della vita. Ma assolutamente no. Incoerente è una vita che guardo, studio, leggo sugli animali, però appunto è difficile arrivare poi, anche perché, ecco, questo possiamo dire, è veramente complicato, perché se uno va a vedere quanto del nostro mondo ha a che fare con gli animali, pare praticamente tutto, non c'è un pezzo, anche la persona più coerente dai nostri vestiti, dal cibo, dall'allevamento, infinitamente la nostra vita si basa in larghissima misura sullo sfruttamento industriale, spesso ignobile, degli animali non umani, ecco, dicevamo questo non umani, anche lì, no? Sì. Ci sono due tipi di animali, noi e poi quelli che non sono umani. E perché non diciamo che noi siamo un animale non animalesco? Cioè, è sempre il nostro punto di vista che non viene mai tematizzato. Sull'incoerenza sfonda porte aperte, ma forse solo questo è il campo in cui... No, poi tra l'altro riflettevamo prima che all'interno del festival ovviamente non si parlerà solo di cani e gatti, ma si parlerà anche di fauna selvatica, di quegli animali che appunto vengono trovati in ambiente naturale e si decide in qualche modo di farli propri, i ricci, le faine, le volpi e così via. Ecco, in quel caso non ne parliamo, nel senso che ce ne appropriamo. Allora, sul cane e sul gatto diciamo che un po' sono delle specie che in qualche modo ci siamo selezionati un po' come... Il cane è sicuro, è accertato, ecco, il cane non esiste in natura, il cane è un'invenzione degli umani, come peraltro, e qui lo dice giustamente Marchesini, l'uomo è un'invenzione del cane, perché ci siamo costruiti uno con l'altro per poter stare insieme, quindi l'evoluzione va in due direzioni. Perché siamo così capaci di capire gli umori dei cani ed è già più difficile capire i gatti? I cani ci hanno in un certo senso costruito per essere capaci di capire quello che passa per la testa di un cane e viceversa. Quindi, ecco, il cane proprio, quasi te lo considererei nel gruppo degli animali non umani, è abbastanza più vicino a un umano forse da un punto di vista comportamentale che ai lupi da cui noi geneticamente proviene. No, ma gli altri animali, mi viene in mente una cosa che è bella, io abito qui a Roma, vicino, abbastanza vicino a Villa Panfili, che è una villa molto un bella. Un parco enorme. Parco enorme, da un po' di anni ci vive una sempre più ricca colonia di pappagalli verdi che presumo vengono dal Sud America, non so come sono arrivati qua, qualcuno l'avrà portati, saranno sì, scappati. Probabilmente sono scappati dalle case. Ecco, lei non la immagina quanto è bello, cioè, perché poi la cosa bella dell'animalità è che gli animali se ne fregano completamente dei nostri regolamenti, delle nostre aspettative. Allora, io sono in una zona piena città, palazzi, improvvisamente vede un gruppetto di questi pappagalli verdi, verdissimi, che sfrecciano dentro sopra le macchine in questa città e improvvisamente capisci cos'è l'animalità, cioè è totale libertà, totale movimento, stanno sempre insieme, lanciano degli strani fischi incomprensibili, e allora in un certo senso uno capisce la bellezza, no, dell'animalità, che però è una bellezza che va rispettata in questo senso proprio più radicale possibile, cioè lasciamoli stare, non costringiamoli, se proprio vogliamo, a diventare qualcos'altro. In fondo quegli animali sono stati portati qui in qualche gabbia, qualcuno sarà scappato, si sono riprodotti. Non so, l'altro animale, ecco, che però vede anche qui la contraddizione, lei lì, certo, ci vedeva tanta libertà, in realtà questi mai sarebbero arrivati a Villa Panfili. No, però una volta ci sono arrivati è casa loro, si è una cosa adattati. Assurda, una volta sono arrivati è casa loro, questo mi piace un sacco degli animali. È la nostra di animalità che mi pare lasci un po' a desiderare in conclusione, sì. Mi sembra, no? Sì, tutta da inventare, cioè tutta da... In questo senso c'è molto da imparare, no? Dagli animali, però questi che non ci piacciono, questi che... Forse l'animale più bello del Novecento è quello che raccontava Kafka, cioè il topo. Ecco, il topo è l'animale per definizione. Ci fa paura, ci fa schifo, ne uccidiamo a miliardi, eppure resiste, è dovunque, si intrufola, resiste. Nessuno dice sono amico di il mio amico topo, tutti diciamo siamo amici con gatti e cani. Ecco, forse diventare perché? Amici con i topi potrebbe essere. Va bene, grazie Cima, a tutti gli ascoltatori. La possono incontrare sabato 24 maggio a Roma all'Auditorium Parco della Musica, e insomma io la ringrazio, sicuramente ci risentiremo presto. Grazie ancora per le domande, grazie moltissimo. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nascita dell'intersoggettività, ma non vi sto dando una notizia. La nascita dell'intersoggettività è un saggio scritto da Massimo Ammaniti, che è qui con noi questa sera. Buonasera Ammaniti. Buonasera. E da Vittorio Gallese. Buonasera Gallese. Buonasera. Allora, Massimo Ammaniti è uno psicanalista, insegna psicopatologia dello sviluppo presso la facoltà di medicina e psicologia dell'Università Sapienza, e invece Vittorio Gallese, anche lui insegna all'Università di Parma e è uno dei ricercatori all'interno di quella importante, insomma, scoperta, nuova strada teorica e pratica che è quella dei neuroni a specchio, di cui abbiamo parlato altre volte in trasmissione. Allora, io ho detto nascita dell'intersoggettività, vedrete che questo saggio, però lo capiremo un po' più avanti in questa intervista, propone un cambiamento di punto di vista in tutto questo grande territorio di ricerca che riguarda l'analisi dei nostri comportamenti e quindi il sistema di relazione col mondo che noi abbiamo. Però Ammaniti, arrivo a lei perché ci dia rapidamente che cos'è, insomma, intersoggettività, che cos'è questo accento sul sé. Credo che occorre sottolineare che l'intersoggettività rappresenta, possiamo dire, un'attitudine particolarmente umana a mettersi dal punto di vista dell'altra persona con cui uno entra in rapporto, cercando di comprendere quali sono gli stati d'animo, le motivazioni, i desideri dell'altra persona. Questo è un processo, possiamo dire, intenzionale da una parte, però che noi facciamo continuamente in modo automatico quando entriamo in rapporto con gli altri, ossia quando incontro una persona, la guardo, la ascolto, vedo il suo volto, le sue espressioni, le posizioni del corpo e così via, e cerco di capire qual è la sua attitudine mentale e quali sono le sue motivazioni e qual è la sua disposizione nell'incontrarmi. Cioè, sì, è qualcosa di fondamentale, da una parte perché ci prepara all'incontro con l'altro, nello stesso tempo ha anche un grande valore perché può anche avere un valore difensivo, nel senso, per esempio, di cogliere l'ostilità dell'altro, il risentimento e così via. Cioè, e noi abbiamo usato il termine la nascita della intersoggettività perché partiamo, per certi versi, dalla gravidanza. I genitori, sì, esatto, che già durante la gravidanza considerano il bambino, il feto, già come un essere dotato di una intenzionalità, gli attribuiscono stati d'animo, sentimenti e così via. E questa capacità si sviluppa ancora di più dopo la nascita, e naturalmente il bambino in un clima di questo genere, un clima che lo riflette, che lo comprende, progressivamente svilupperà questa sua capacità. Ecco, però Ammaniti, voi non andate nel vostro testo a suggerire un'attenzione a questo tipo di attività verso gli altri, che certamente è un pezzo fondamentale del nostro comportamento. Voi dite che però non se ne può fare a meno, cioè noi siamo costruiti come esseri viventi attraverso questa relazione con l'altro. Qui c'è un io che sta scomparendo. O perlomeno direi che per secoli e secoli, ma anche nell'ultimo secolo, l'io è stato al centro dello scenario umano, l'io, l'ego e così via. Tuttavia, sempre di più, sia in campo filosofico, ma anche in campo psicologico, psicoanalitico e neurobiologico, si è aperta, diciamo, questa prospettiva sull'incontro con l'altro, quello che noi chiamiamo il noi, come esiste l'ego di cui parlava Freud. Poi altri autori hanno parlato del wigo, cioè del noi, che è un altro aspetto fondamentale nell'esperienza umana. C'è un'indissolubilità assoluta di questi due elementi. Vittorio Gallese, è chiaro, i neuroni a specchio, lei poi magari citandoci anche un solo esempio, hanno un ruolo importante in questo tipo di interpretazione, perché dalle vostre ricerche, incominciate una ventina di anni fa, forse anche più, si sta proprio dimostrando, no, che quando noi facciamo qualcosa, la dico in modo molto grezzo, ma sostanzialmente imitiamo sempre qualcun altro. Diciamo che più che imitiamo, una parte del nostro cervello simula quello che fa l'altro. Sì, ecco. Io vedo l'altro muoversi, non mi muovo, ma una parte del mio sistema motorio si attiva come se io mi stessi muovendo. E questa simulazione motoria noi riteniamo che sia una delle modalità più dirette di accesso a quello che sta facendo l'altro e perché lo fa, per cui se io e lei siamo a tavola al ristorante, ordiniamo entrambi un'insalata e io mi accorgo che lei sta guardando la bottiglia dell'olio per condirla, che è più vicina a me rispetto a dove è seduto lei, questo suo sguardo o un accenno di movimento del braccio fanno sì che io capisca immediatamente che lei vuole versare l'olio sulla sua insalata. Io prendo la bottiglia e le chiedo ha bisogno dell'olio? Sì. Ecco, diciamo questo tipo di cose che succedono quotidianamente in continuazione, grazie a questa scoperta, diciamo, trovano una base neurofisiologica. Solo che non è una questione di gentilezza, no? Nel porgere l'olio. Ci sono miliardi di situazioni che continuano a riproporsi, nei quali noi agiamo perché si mette in moto questo meccanismo. Certo, l'interazione all'interno della relazione, quindi quello che io farò rispetto a un'altra persona con cui mi incontro, con cui mi relaziono, presuppone che la mia condotta di azione sia guidata da una comprensione il più possibile accurata del contesto e della situazione. Quindi la mia reazione o la mia risposta all'azione dell'altro è appropriata nella misura in cui io capisco l'altro. Questi meccanismi di simulazione, che noi definiamo simulazione incarnata, sostenuti dall'attivazione di neuroni con queste proprietà, noi abbiamo parlato dell'azione, ma meccanismi simili li abbiamo scoperti anche a carico delle emozioni e delle sensazioni. Quindi diciamo si configura nella relazione con l'altro, che è complessa, che si può interpretare a più livelli. Ecco, c'è questo livello che è un livello che noi riteniamo fondamentale sia dal punto di vista filogenetico, cioè come la specie umana ha sviluppato queste competenze cognitive e sociali, sia soprattutto, che è uno dei temi importanti del libro, come le sviluppiamo ontogeneticamente, cioè passando da feti a neonati, a bambini, a giovani, infine a adulti. Ecco, nel vostro libro c'è una bellissima foto, la foto di un feto, di un bambino che si ciuccia il dito. Sì. Allora, lui non ha mai visto una mamma, non ha mai visto il mondo esterno, ma si sta già preparando a un gesto fondamentale di relazione. È qui che voi sostenete l'importanza di introdurre un modo nuovo di vedere come si fa ricerca in generale, anche con le neuroscienze che ci stanno dando certo tanti strumenti, ma insomma è a partire da questo tipo di cose che voi chiedete un cambiamento, un po' di paradigma, no Gallese? Sì, sì, certo. Le neuroscienze, come bene diceva lei, oggi rappresentano uno strumento potentissimo di indagine, ma questa indagine non è che arriva in un territorio del tutto deserto, diciamo, fornisce un livello di descrizione, un livello di indagine nuovo per affrontare temi che tuttavia sono vecchi come il mondo. Quindi voglio essere chiaro, se vogliamo capire la psiche e la mente non possiamo non fare i conti con il cervello, perché senza cervello non c'è né mente né psiche. Ma lo scopo dello studio del cervello è strumentale a capire chi siamo noi, e quindi questo metodo di indagine non può appiattire ciò che vuole spiegare, cioè la nostra esistenza, di che cosa è fatta, in che cosa si sostanzia, ma deve partire e ritornare a quella ricchezza di sentimenti, di intenzioni, di desideri che fanno la nostra vita. Quindi non deve portarci a una visione impoverita dell'uomo, da qui la necessità di tenere insieme un livello di descrizione psicodinamico, che è quello tipico della psicologia e della psicanalisi, e quello invece, come diciamo noi, subpersonale, che per capire la persona ne mette a fuoco una parte, cioè nel caso specifico il sistema cervello-corpo. Tema estremamente interessante, che peraltro è tipico anche di altri momenti in cui vengono fuori delle tecnologie potenti, certamente utili, ma si corre il rischio di appiattirsi sulla tecnologia e vederla meno come strumento per, no? Ecco, Ammaniti, volevo ritornare a lei, il bambino appunto che si succhia il dito quando non ha nemmeno, non dovrebbe avere un'idea di mamma. E poi il vostro libro, è in questo è davvero molto interessante, è un libro, un saggio un po' denso, però è consigliabile anche a un pubblico magari non particolarmente interno, amante di questo tipo di problemi. Molta parte del libro è dedicata al rapporto madre-figlio, che è il rapporto che ci insegna l'intersoggettività. Questo esempio che lei ha fatto, il feto che si succhia il pollice, evidentemente questo appartiene a dei programmi motori innati. Come alla nascita, cosa che noi raccontiamo, il neonato è in grado di imitare l'espressione facciale di un adulto che sia davanti a lui. E questo è un meccanismo non solo di imitazione, ma addirittura probabilmente è un meccanismo di assimilazione dell'altro, per cui l'altro diventa come me, possiamo dire già un modo abbastanza embrionale di entrare all'interno delle relazioni e della comunità umana. Tuttavia va detto un altro aspetto, ossia se queste sono delle predisposizioni innate con cui il neonato viene al mondo, però per sviluppare, ampliare queste capacità è importante che la madre e i genitori, nel libro si parla anche del padre per fortuna, non solo della madre, anche del padre, e allora quando per esempio la madre allatta il bambino e gli dice, è un bambino di 2-3 mesi, gli dice, beh oggi vedo che il latte della mamma non ti piace perché vedo che storci la bocca perché non vuoi mangiare, evidentemente già la madre ha il bambino in mente e gli attribuisce un'intenzionalità. Allora un contesto, possiamo dire, intersoggettivo di questo genere sicuramente aiuterà il bambino a capire non solo il proprio punto di vista, ma il punto di vista della madre, che per lui è fondamentale, per cui capire se la madre è disponibile, non è disponibile, se la madre è risentita, cioè praticamente entra nel codice delle interazioni e delle relazioni umane. Perché la madre diventa tutti gli altri, inizia ad essere, come dire, un veicolo per tutti gli altri, no? È un prototipo attraverso il quale il bambino poi apprende le regole delle interazioni e anche la capacità di comprendere il punto di vista dell'altro. Ricordo il titolo del libro, La nascita dell'intersoggettività, sottotitolo Lo sviluppo del sé tra psicodinamica e neurobiologia, ed è edito da Raffaello Cortina Editore. Massimo Ammanniti e Vittorio Gallese, grazie per questa conversazione e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Penne, accendini, posate, insomma sono tanti gli oggetti che vengono in qualche modo sottratti dai cleptomani. Oggi vogliamo raccontarvi un po' questo mondo della cleptomania. Lo facciamo con una psichiatra dell'ospedale San Raffaele di Milano. Diamo il benvenuto a Maria Cristina Cavallini. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ne parliamo perché lei ha affrontato questa tematica in un recente articolo apparso su Mente Cervello di questo mese. Non so, dottoressa, mi dica lei, è meglio iniziare inquadrandola, capiamo un po' che tipo di... è una patologia intanto, che cos'è la cleptomania? Diciamo che la cleptomania è una situazione in cui soggetti che ne sono affetti avvertono in maniera incoercibile l'impulso quando si trovano in situazioni che possono essere negozi, anche in casa di amici, quindi situazioni anche diverse da quelle che possono fare pensare a un esercizio commerciale, di sottrarre, vedono un oggetto anche di cui magari non hanno necessità o bisogno, magari potrebbero benissimo acquistarlo, eppure nasce in loro il desiderio irrefrenabile di possederlo. Quindi un po' nevrotici, un po' istintivi. Sì, diciamo impulsivi. Userei il termine più impulsivi, nel senso che è qualcosa a cui non possono porre freno fondamentalmente, questo non porre freno crea una sofferenza, perché poi il disagio che è generato da questa situazione è proprio questo malessere, eh? Molti pazienti lo descrivono proprio in questi termini, come un qualcosa quasi doloroso. Ma lì per lì loro se ne accorgono di sottrarre l'oggetto o se ne accorgono a posteriori, magari quando se lo ritrovano in tasca o tornano a casa? Beh, diciamo che se ne accorgono, nel senso che la persona che poi si trova ad afferrare l'oggetto, anche se questo avviene contro la sua volontà, diventa un impulso, è consapevole che questo processo sta avvenendo. Poi alcuni pazienti, però è la minoranza, lo descrivono quasi come fosse uno stato di trance, no? Una situazione dove la mano si muove senza che loro possano fare nulla per bloccarla, però il soggetto, questo poi è il grosso problema rispetto all'imputabilità anche di questi soggetti, hanno la consapevolezza dell'atto che sta avvenendo in quel momento. Gli oggetti stessi non sono oggetti di valore, sono oggetti abbastanza, insomma, di vita quotidiana. Possono essere di vita quotidiana, possono essere, dipende da dove questo impulso può scatenarsi fondamentalmente. Possono essere, come accennavo poco fa, anche oggetti, non so, vado a trovare un amico, vado a trovare un parente, vedo un oggetto, quindi il rubare, il sottrarre può essere anche in contesti che, come ricordavo prima, non c'entrano nulla col negozio, il supermarket e via dicendo. Ecco, diciamo che sono molto diversi dalla categoria ladro, ecco, in questo caso. Possiamo... Non sono azioni pianificate. Allora, sicuramente il soggetto che sa di avere questo problema è timoroso nel momento in cui entra in un negozio, in cui va, che potrebbe avvenire questo, però non c'è dietro un progetto, desidero quell'oggetto e pianifico come fare per sottrarlo, assolutamente, come specificavo poco fa, è un atto impulsivo. E sono soggetti appartenenti a tutte le categorie, cioè possiamo ritrovare persone abbienti come persone meno abbienti? Persone, assolutamente, assolutamente. Per capire, è una patologia rara oppure coinvolge, diciamo, soggetti numerosi in una popolazione? Non ne ho idea. Guardi, stime sulla popolazione italiana non esistono. Di solito, come avviene anche in altri ambiti, noi ci rifacciamo a quelle che sono le stime. Comunque si tratta di una popolazione occidentale, quindi abbastanza trasferibile come percentuali anche su quella italiana, che è la popolazione americana, nordamericana. Le stime che loro sono riusciti a fare, che è un problema che affligge circa il 6 per 1000, cioè degli individui, ogni 1000 persone almeno 6 avrebbero questo tipo di problema, che è quindi abbastanza frequente. Tenga presente che alcuni soggetti magari questo tipo di problematica non nasce come cleptomania e basta, possono essere pazienti o situazioni caratterizzate da altre sintomatologie a cui si associa anche la cleptomania, al punto che oggi in realtà la cleptomania cleptomania non è un disturbo a sé stante, anche se se ne parla, si definisce là come abbiamo fatto poco fa, ma nelle nuove classificazioni, nelle ultime classificazioni diagnostiche si tende a vederlo più come un evento, un qualcosa che si associa ad altre situazioni cliniche. Quindi cioè non un evento singolo, ma sempre associato a degli altri. Può essere, non so, pazienti depressi possono presentare questo tipo di manifestazioni, i pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo, che è una categoria di disturbo caratterizzata appunto da pensieri ricorrenti, ripetitivi, talvolta anche impulsi ricorrenti e ripetitivi, e quindi la cleptomania sarebbe una sottoclassificazione, un sottoinsieme di sintomi all'interno di queste patologie. Ecco, nella psicanalisi diciamo più tradizionale tutto questo veniva un po' spiegato come motivazioni derivate dallo sviluppo, dalle influenze ambientali, un po' freudianamente. Ecco, adesso c'è tutta una corrente invece un po' diversa che dà una spiegazione un po' di tipo biologico, se non erro, anche lei è d'accordo su questo? Sì. Nel senso che ovviamente si tratta di studi ancora molto in divenire, fondamentalmente, anche perché, come ben comprensibile, è difficile riuscire studiare in vivo il cervello di questi pazienti, fondamentalmente. Però si pensa che ci siano delle anomalie a livello di alcuni circuiti, si ipotizza che ci siano delle anomalie di alcuni circuiti neuronali, caratteristiche specifiche che sono condivise appunto tra l'altro con le patologie che citavo prima, queste anomalie, e che determinerebbero poi lo svilupparsi di questo tipo di problematiche. Questo tipo di come dire, ipotesi viene anche rinforzato dal fatto che attualmente è possibile anche intervenire con dei trattamenti che non sono solo di tipo psicologico ma anche farmacologico. Si tratta ovviamente di trattamenti anche in questo caso che sono in corso di sviluppo, di verifica, di approfondimento, però sicuramente in alcuni pazienti hanno costituito un notevole aiuto nel ridurre appunto questa spinta irrefrenabile. E infatti le stavo per chiedere se un cleptomane in qualche modo può, tra virgolette, guarire. Sì, sono possibili, come le dicevo, questo doppio, diciamo, approccio, sia di tipo psicologico, in cui si insegna al paziente a resistere gradualmente a questo impulso, mettere in atto delle strategie di resistenza, o alternativamente la farmacopea sta cercando di individuare dei trattamenti in analogia con quanto avvenuto nelle sindromi dell'umore, nelle depressioni, piuttosto che nel disturbo ossessivo compulsivo, per cercare di modificare, modulare, ridurre fino all'estinzione questo tipo di impulso. E come diceva lei, sono soggetti che appunto provano disagio, ecco. Sì. E soprattutto leggevo, mi dica se sbaglio, che nel momento in cui diciamo realizzano il fatto di aver sottratto, sì, ecco, tendono quasi a volerlo restituire, cioè in qualche modo a volersi scusare, rientrare in qualche modo dal perché disagio. L'esecuzione dell'atto, allora, come le dicevo, l'impulso, sì, la spinta è quello che provoca il dolore, il fastidio. Lo compimento dell'atto porta a una diminuzione di questa tensione, di questo fastidio interno, però il soggetto successivamente si rende conto del tipo di atto illecito che comunque ha compiuto, e quindi è capitato anche a me con alcuni dei miei pazienti che poi successivamente la vergogna, la paura, anche il timore poi alla fine di poter essere, certo, scoperti, li porta comunque a cercare, in alcune sedute capita che molto del tempo sia occupato da questo, per cercare di individuare il modo meno come dire critico per il paziente proprio di restituire questi oggetti. Come posso fare? Se faccio questo cosa mi può succedere? Quindi c'è proprio questo desiderio, questa volontà in qualche modo di riparare. Però mi pare di capire, appunto diceva, che assolutamente c'è la possibilità di guarire o comunque resistere, di essere trattati per questo problema. Va bene, grazie dottoressa per la spiegazione, buona serata e buona ricerca. Buona serata anche a tutti voi, salve. Tira fuori quelle forchette che hai nella borsetta. No, a me piace rubare le penne. Le penne? Sì, però lo faccio consciamente. Consciamente. Sì. Vabbè, abbiamo raccontato tutto quello che c'era da raccontare? Altro non abbiamo, ma solo perché è finita la puntata. Ci Tra sentiamo sette giorni. Buona settimana a tutti. E a tutte.